C'è un problema pratico, tecnico, generale, insomma, diciamo così, spirituale, anche morale, emotivo. Insomma, vabbè, c'è un discorso abbastanza serio, che la storia va vista nel suo insieme, in un gioco di equilibri. Purtroppo all'interno di questi equilibri ci sono poi le cose pratiche, le persone, ma all'interno del macro discorso, che è appunto la storia, purtroppo le singole persone hanno un posto relativo. Eppure secondo me esiste la possibilità di creare un equilibrio nell'equilibrio, cioè creare un equilibrio nella storia e creare un equilibrio anche per le persone che la storia lo fanno. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia, che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico, smarchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna. Andata la fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Mo te sputo, che fai? Buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra! E buongiorno a tutti, carissimi amici di Runtime Radio. Buongiorno un cazzo a voi che siete già svegli qui, pronti ad ascoltare queste ennesime farneticazioni di questo vecchio davanti a un microfono che è qui e vi saluta. Ciao Walter, ciao Michela, ciao DJ Hook di Revolve Radio. Ricordiamo sempre, insomma, ogni tanto fate una capatina anche su Revolve Radio, ma cercateli anche su Twitch, perché giustamente si stanno ibridando per andare verso il futuro, come fanno quelli giovani e fanno bene. E allora, dicevamo che buongiorno un cazzo a tutti, diciamo farneticazioni. Questa mattina sarà abbastanza interessante, perché ripercorrerò un po' a ritroso alcune puntate che abbiamo fatto, senza citarle perché non me ne ricordo, però mi ricordo che ci sono certi temi che avevamo già trattato e che in qualche maniera riemergono proprio grazie a tutti quelli che sono gli eventi che in questo momento, insomma, stanno attirando la nostra attenzione per ragioni, insomma, anche abbastanza drammatiche e tristi. Però, insomma, alla fine comunque vedete che le cose in qualche maniera tornano e ritornano, è un fattore ciclico. E non vorrei andare a citare Battlestar Galactica, quel gran capolavoro, insomma, del remake che è stato fatto, che era il 2005-2006. Neanche me lo ricordo, perché And Again, And Again, And Again, alla fine è una grande metafora di quello che è, insomma, la nostra ciclica storia che si ripete costantemente. Però ci sono degli elementi che sono interessanti, perché in qualche maniera rafforzano alcuni concetti che abbiamo già espresso. Prima di questo vi ricordo, insomma, che mi farebbe molto piacere se mi date una mano ad aggiornare questa sigla, come ho già detto diverse volte, perché pur essendo cose che riguardano qualche mese fa, al massimo insomma diversi mesi fa, qualche decina di mesi fa, oggi sembrano già elementi anacronistici, già passati di moda, già passati alla storia in qualche maniera. E quando io sento la tizia lì di Palermo che dice non c'è Covid, non c'è Covid, mi viene comunque quasi la sensazione di vabbè, madonna quanto è vecchia sta sigla, no? Chissà perché, insomma, questo è una cosa che alla fine in qualche maniera mi fa riflettere, come mi farà riflettere la canzone che voi sapete per tradizione noi utilizziamo per iniziare la trasmissione. e quindi buon ascolto con i Modena City Ramblers. Modena City Ramblers, oltre la guerra e la paura, mi fa ricordare che di norma, ma qui parliamo di norma, cioè noi parliamo di condizioni, insomma, parliamo di condizioni speciali, di norma noi siamo sempre con chi resiste, siamo sempre contro l'oppressore, i nostri nemici sono sempre coloro che opprimono con la forza gli altri, e questo non cambierà fondamentalmente. Loro sono i nostri nemici in qualche maniera e noi dobbiamo sempre sostenere le situazioni più deboli. La cosa brutta è che in questa guerra ovviamente noi facciamo un po' fatica a distinguere certe figure, certi elementi, diciamo, che un po' scompigliano, no, in qualche maniera. Perché? Perché sebbene noi comunque dobbiamo sostenere la popolazione ucraina, perché è quella che resiste in qualche maniera, e dobbiamo essere contro i russi in questo momento, perché è la forza oppressiva e l'oppressore che invade per ora impunemente, neanche tanto, insomma, diciamo così, dobbiamo anche riconoscere che la storia colloca all'interno di questo contesto, all'interno di questo conflitto, delle motivazioni che hanno delle radici talmente antiche e talmente moderne allo stesso tempo, che in qualche maniera è veramente difficile riuscire a fare un discorso più netto, così come si è sempre cercato di fare, no, tra appunto oppressore e resistente. Ma non è tanto questo, cioè non è che voglio fare un giudizio di merito, come abbiamo detto sia in Buongiorno un Cazzo che in tante volte nelle orazioni della sera, così come in OGM e così come in tutte le trasmissioni che abbiamo cercato di fare durante questo periodo, compreso lo speciale che abbiamo fatto proprio sulla guerra. Non esistono bravi, non esistono buoni in questa guerra, ma così come probabilmente non succede in generale nelle guerre, e questa guerra ovviamente non fa da meno, chiaramente, all'interno di questo tipo di discorso. Ma la cosa che dovrebbe comunque attirare un po' la nostra attenzione, cioè, nel senso, il mio pensiero, diciamo, è stato attirato da una cosa che si è sentita in televisione a un certo punto, perché condivido pienamente questo tipo di pensiero, ed è un pensiero che bisogna cercare anche di estendere nella logica, perché, e qui poi veniamo anche a uno dei prossimi temi che affronterò durante la puntata, non si può andare avanti sempre con il pensiero unilaterale, con il pensiero collettivo, diciamo, quel pensiero che è quello, e che quindi se tu evadi, diciamo, da quel contesto, crei una situazione di disapprovazione in generale, perché no, adesso bisogna... E a dire una cosa che io penso, ci pensa Giorgio Cremaschi, scusate, ovviamente dovete sempre tenere in considerazione l'ora che è, vediamo se riesco a farvelo sentire. La situazione è terribile, quando c'è una guerra bisogna essere sempre contro la guerra. Io onestamente penso di avere il titolo, non io, ma diciamo il mondo di cui faccio parte di averlo, perché siamo stati contro i bombardamenti, siamo contro i bombardamenti di Putin, come se eravamo contro quelli della NATO che è contro Belgrado, come siamo contro quelli dell'Arabia Saudita con le armi italiane che hanno ucciso 1 milione di persone nello Yemen. Noi siamo contro la guerra, e quindi chi è contro la guerra fa bene, e io penso a dire che anche Putin non può usare queste cose. Se guardiamo, non può fare la guerra, e da questo punto di vista non ho nessuna difficoltà a dire questo. Se guardiamo invece alla colpa, cioè le ragioni, beh, la colpa principale è della NATO. Su questo non c'è dubbio. La colpa principale della NATO. Perché, Cremaschi? Innanzitutto perché la NATO, intanto perché secondo me non dovrebbe neanche esistere. La NATO non ci dovrebbe essere. Nel 1991 fu sciolto il patto di Varsavia, c'erano le condizioni per fare una pace europea. Nel 1992 è stata rilanciata la NATO, e in questi 30 anni la NATO ha fatto guerre in tutto il mondo. Ecco, insomma, scusate, ma è difficile riuscire a gestire tutto quanto, tra l'altro perché questo video è su Twitch, Sì, su Twitch, e tu su Twitter, e quindi praticamente mi trovavo un po' in difficoltà nel districarmi da questo punto di vista. Ecco, la colpa è della NATO. Allora, torniamo sempre al discorso, non parlare di colpe in senso assoluto in questo contesto è veramente difficile, però al di là delle ragioni storiche e etniche che comunque insomma caratterizzano quell'area geografica in maniera particolare, ma da sempre. Poi c'è anche un discorso strettamente politico, ne abbiamo parlato appunto nelle varie trasmissioni, e poi ieri è uscita appunto la puntata di Data Nightmare, che è arrivata come una bomba, perché in 9 minuti condensa un pensiero penso abbastanza condiviso all'interno di Runtime Radio, a parte per qualcuno chiaramente, perché noi possiamo essere tutti quanti assolutamente della stessa idea, però diciamo che questa condensazione assume una potenza incredibile, perché è come un piccolo oggetto che esplode in una maniera veramente potente. Quindi vi invito ad andare a recuperare. E il discorso che quando, insomma, se chi si ricorda quando praticamente Gorbaciov dichiarò la fine del blocco sovietico, quindi la fine del sistema legato alle repubbliche sovietiche, successivamente chi se lo ricorda ci fu questa sorta di pseudo colpo di Stato che volle accelerare in maniera così rapida, così profonda il cambiamento nell'Unione Sovietica, da dare in mano praticamente un mezzo impero a un ubriacone, spalleggiato ovviamente dagli americani, i quali hanno cercato di trasformare la Russia nel loro nuovo giardino di soldi. E se ci ricordiamo l'immagine più drammatica tra virgolette in senso strettamente ideologico, ma non perché bisognava difendere un certo tipo di ideologia, però proprio perché era quasi una beffa, no? Cioè quasi moralmente una beffa, era praticamente il McDonald's davanti insomma sulla Piazza Rossa, che divenne poi una sorta di logica conseguenza, no? Il crollo del blocco sovietico ha significato un disequilibrio a livello mondiale, un disequilibrio che avrebbe potuto, come diceva anche Walter Vannini e come diceva ovviamente anche l'intervento che abbiamo sentito, avrebbe potuto mettere le basi per una pacificazione più universale, più globalizzata, diciamo, in maniera particolare per quanto riguarda l'area europea. E questa è una cosa che non è successa chiaramente, perché ed è il motivo per cui noi ci costruiamo delle sovrastrutture concettuali e legali, perché l'uomo non è in grado, da questo punto di vista non ci sono le condizioni, non è ancora evoluto abbastanza per poter comprendere veramente che la soluzione è quella di abbandonare completamente qualsiasi tipo di arma di deterrenza o meno che sia, e quindi noi costruiamo appunto delle regole, costruiamo delle strutture, delle sovrastrutture, e ci imponiamo delle regole in maniera tale che sia sempre più complicato, sempre più difficile evadere da quel meccanismo, che porta ovviamente poi dopo a conflitti, a rivendicazioni violente e via dicendo. E questo è quello che poi invece poi alla fine è finito a succedere con il crollo appunto del blocco sovietico e lo scioglimento del patto di Varsavia. La NATO ha spadroneggiato da un certo punto di vista per molti decenni, proprio perché non c'era una contrapposizione reale. La Cina non era ancora quella che è diventata adesso, e non si era ricostruita un blocco russo, diciamo, abbastanza importante. E questo ovviamente ha portato la NATO a fare un po' quello che gli pareva, e invece di comprendere il fatto di continuare a costruire una sorta di equilibrio, ha avanzato, ha continuato ad andare avanti, quando ovviamente di per sé come organizzazione, come patto d'alleanza, non aveva più senso, se non ovviamente ridefinendola, ricostruendola in un contesto più globale. E questo volersi avvicinare sempre di più, questo modo sfrontato di voler arrivare sempre più a ridosso, ovviamente ha creato tanti disagi, tante situazioni, tante rivendicazioni, e ha dato nuovamente tanta linfa a quel nazionalismo che in qualche maniera si era calmato. E la NATO sotto la Russia, cioè quindi a ridosso della Russia, è la stessa immagine che ci dà il McDonald's nella Piazza Rossa. Bene, bene, bene. Un po' di metal con i No Sons of Mine. E questa è Go to War, ovviamente. Insomma, una canzone abbastanza adeguata da questo punto di vista. E quindi niente, parlavamo di equilibri, parlavamo di blocco sovietico, no? Tra l'altro, andando ovviamente a stuzzicare, diciamo, costantemente e sostanzialmente quello che sono i rigurgiti nazionalisti di queste aree, chiaramente il risultato non può che non essere una polveriera, no? Diciamo che se non altro, se c'era un pregio, diciamo, dell'ex blocco sovietico, stava anche nel fatto di avere l'opportunità di controllare determinate situazioni, ovviamente con la repressione, con la violenza, quindi sicuramente non era un merito in senso positivo, però comunque tutto questo grosso cappello ideologico che veniva costruito in queste aree chiaramente teneva a bada, diciamo, forse in qualche maniera, così come ricordiamo il famoso discorso di Stalin contro l'invasione tedesca, erano riusciti, mischiando ideologia e nazionalismo, diciamo, a creare una nuova identità, no, dello Stato, per ovviamente quelle popolazioni. La stessa cosa l'abbiamo potuta riscontrare con la Jugoslavia, no? La Jugoslavia, fin quanto ovviamente c'è stata l'opportunità di avere questa identità, no, che in qualche maniera riusciva a raggruppare un po' tutti, sempre con tutti i metodi e metodologie di cui sopra, chiaramente la situazione era, tra virgolette, sotto controllo. Come è accaduto ovviamente l'influenza sovietica e la Jugoslavia si è disgregata, tutto quelli che erano i nazionalismi, la ferocia ovviamente dello scontro, la polizia etnica, ovviamente i genocidi e via dicendo, tant'è che ovviamente una delle prime guerre post-sovietiche che noi ci ricordiamo è proprio la guerra di Jugoslavia, dove ovviamente la NATO in qualche maniera direttamente e indirettamente è intervenuta, anche se avrebbe in teoria inizialmente senza neanche il mandato dell'ONU, perché comunque in teoria quella era una sorta di guerra civile, no? Poi vabbè, giustamente in realtà questa giustificazione non poteva tenere, perché lì erano popolazioni che se la prendevano con popolazioni cercando azioni di sterminio nei confronti dei vicini, perché erano di un'altra religione, perché erano macedoni anziché serbi e via dicendo. Ce lo ricordiamo, insomma, più o meno la storia abbastanza recente del nostro, insomma, della nostra area, perché noi giustamente ci preoccupiamo del fatto che la guerra russo-ucraina è abbastanza dietro l'angolo, quella invece era proprio a 500 km da noi, quindi insomma il discorso era anche peggio, tant'è che noi siamo stati anche molto coinvolti, no, da un punto di vista militare, siamo stati coinvolti nella maniera anche più becera, perché ricordiamo tutti i ragazzi bosniaci che sono nati o sono cresciuti in Italia, che stanno tornando in Bosnia per costruire un futuro anche per il loro paese, che giustamente ci raccontano quanto in determinati campi, in determinati prati, in determinati contesti, in determinate aree loro non possono andare a giocare a pallone, ad esempio, perché ci potrebbe essere qualche migliaio di mine prodotte in Italia che gli potrebbero fare zompare le gambe qualora questo, insomma, fosse il miglior risultato possibile. E quindi questo cappello, dicevamo, giustamente è venuto meno, e tutti questi grossi calderoni, questo disprezzo, questo odio che alla fine evidentemente ha anche radici antiche, è venuto chiaramente a galla. E su questo giustamente ci fa gioco anche i giochi, gli interessi ovviamente delle due forze diciamo maggiori che hanno interesse nella disgregazione di un pensiero che è quello europeo, no? Della costruzione di una unità regionale da un certo punto di vista anche culturale, perché giustamente se ovviamente tutte le ex repubbliche sovietiche vogliono far parte dell'Europa, questo discorso potrebbe riguardare anche gran parte della Russia, una parte della Russia, perché poi dopo c'è tutta la parte orientale, insomma, ricordiamo che la Russia praticamente abbraccia in maniera, insomma, disinvolta due continenti, insomma, quindi poi alla fine arriva veramente fino insomma a una parte abbondante di Asia. E questo alla fine ci fa riflettere anche sul fatto che qualcosa non ha funzionato, no? E quindi torniamo al discorso delle due forze che vogliono, che hanno voluto disgregare o hanno tentato di disgregare l'Europa, che sono ovviamente le due forze contrapposte, perché giustamente la Russia a un certo punto ha ripreso, diciamo, la sua identità, la sua posizione come entità forte, no? Stimolata anche dal fatto di essere stata abusata, essere diventata il giocattolo degli americani. A un certo punto tutto questo grosso nazionalismo è rinato fuori su che cosa? Sui principi e sulle iconografie del vecchio mondo sovietico, ossia praticamente quella stessa cultura e quella stessa ideologia dello Stato icona che praticamente ci avevano anche durante il blocco sovietico. E questa cosa chiaramente ha portato i russi a chiedere un senso di rivalsa e quindi votare delle forze più estremiste, più nazionaliste, come Putin, quelle che noi oggi considereremmo forze di destra, anche se poi in realtà questo concetto di destra andrebbe individuato a secondo dell'area politica e geografica dove ovviamente questa cosa si viene a sviluppare. Comunque sicuramente è un governo di destra che ha fatto leva su questo tipo di discorso e ha riapplicato le stesse concezioni, le stesse modalità, le stesse azioni che ha messo durante il periodo della Guerra Fredda, imitando esattamente quello che facevano dall'altra parte. Gli Stati Uniti e la Russia durante questi decenni non hanno fatto altro che cercare di disgregare in tutte le maniere le forze europee. Forse gli americani, inserendo quello che hanno sempre fatto, poi fondamentalmente inserendo le loro personalità all'interno di determinati contesti in modo da creare destabilizzazione, e i russi invece cercando di far nascere movimenti anti qualcosa. Quindi ovviamente vedete poi alla fine tutti quei movimenti disgregativi, no? Tutti quei discorsi basati sull'autonomia, come si dice, sulla sovranità, no? Che sono secondo me il prossimo punto fondamentale di questo tipo di discorso, perché quello che è successo durante questa guerra secondo me è una reazione molto probabilmente imprevista e che in qualche maniera potrebbe salvare sia la capra che i cavoli. Stupid. Vabbè, questi sono quelli di prima, eh. Non so, ho sbagliato, non mi sono reso conto, insomma, che erano sempre i Sons of Mine. E la canzone in questo caso si intitola Arbitrary Law. Quindi leggi arbitrarie, sì, insomma, vabbè, questi ce l'hanno con la guerra e con. Insomma, ce l'hanno con tutti. Mi piacciono, bravi. Poi cantano in growl, che sapete, a me ne mette sempre il buon umore. Chi mi conosce, giusto per darvi informazione topografica, giustamente Michela ci ricorda che il McDonald's non sta nella Piazza Rossa, ma sta davanti al Cremlino. E Walter chiede se c'è Burger King, perché ovviamente preferisce, anche io in effetti. E invece DJ Joker ci dice che oltre a stare davanti al Cremlino, insieme a Barbara Durs. Questa cosa mi ha fatto molto ridere, devo dire la verità, l'ho trovata divertente. Vederlo scritto probabilmente funziona meglio che leggerlo, però. Però insomma mi ha fatto ridere. E dice: no, Burger King non ci sta, però c'è a Peter, c'è sta Subway. Giustamente Peter sarebbe San Pietroburgo, perché è un amico suo, no? Cioè lei è Peter. Peter San Pietroburgo, capito? Subway, che è stata la cosa più bella e breve mai successa a Monterotondo in termini di junk food. Infatti io quando sono venuto ancora c'era, e devo dire che mi piaceva molto, ci andavo volentieri. Poi sapete, insomma, funziona a Monterotondo, no? Quelli che pagano di più vincono di più. I cavoli non mi piacciono, lasciamoli alla capra. Quindi capra e cavoli, dicevamo, no? Capra e cavoli, perché ritorniamo a un altro discorso di quelli che sono stati già affrontati quando abbiamo fatto la puntata sulla sovranità, no? Sui sovranisti, poi, fondamentalmente. E quando ci siamo domandati a chi fa comodo sostenere, fomentare, alimentare, finanziare e far vincere i sovranisti. Fa comodo a tutte quelle entità sovranazionali o internazionali, quindi fuori ovviamente dai nostri contesti culturali, politici e nazionali, i quali preferiscono che le realtà, soprattutto in questo caso ovviamente l'obiettivo è l'Europa, abbiano difficoltà a continuare ad essere coesi. E secondo me questo tipo di discorso in qualche maniera aveva influenzato profondamente la politica europea a un certo punto, tant'è che ci sono delle nazioni che hanno fatto una virata pure da un punto di vista governativo, facendo anche dei giochi di forza, cancellando alcune leggi su alcuni diritti fondamentali che sono il presupposto per poter aderire anche all'Unione Europea. Diciamo che è un gioco politico di forze che è atto alla disgregazione. E quando io vi dico che ci sono, noi ce la prendiamo con quelli che vengono considerati gli stati canaglia, cioè nel senso quegli stati che brutti biricchini, ma poi non ci rendiamo conto che i peggio sono tutti quei stati che noi legalizziamo e concepiamo come degni, insomma, di rispetto, ma che poi alla fine invece in realtà non sono nient'altro che delle prostitute, di entità più forti e più grandi ed esterne da noi. Insomma, questa è una cosa sulla quale bisogna riflettere, perché questo è un discorso che potremmo fare benissimo anche nei confronti dell'Ucraina, ok? Prima dell'invasione. Poi chiaramente l'invasione è un po' cambiato tutto, perché non possiamo non essere solidali con le persone che si nascondono dai bombardamenti, dalle donne e i bambini che sono in fuga, dalle persone che muoiono, no? E chiaramente questo cambia un po' le carte in tavola. Ma la stessa cosa è un discorso che possiamo fare verso Ungheria, verso Polonia, che probabilmente in qualche maniera anche loro compartecipano un po' a un discorso di disgregazione. La disgregazione dell'Unione Europea, quindi la faticosa costruzione di un'entità sociopolitica oltre che economica, e anche una costituzionalizzazione dell'entità Europa, trova sempre più difficoltà, vuoi per errori strategici dell'Europa stessa, che ha puntato tutto sull'aspetto strettamente finanziario, imponendo poi delle leggi che a volte potevano far storcere la bocca a certe realtà locali, piuttosto che puntare su una costituzionalizzazione, perché era ancora presto, perché era complicato per tutta una serie di determinate cose. e all'interno di questi contesti ci sono ovviamente gli elementi disgregatori, gli elementi disgregatori che sono lì proprio per questo, cioè proprio per indebolire sempre di più quella che è la forza dell'Europa, che se da una parte, come dice anche Walter Vannini nelle puntate vecchie, anzi in tutte le puntate di Data Nightmare, l'Europa cerca un'indipendenza dall'imperialismo americano dal punto di vista tecnologico, costruendo e strutturando delle leggi, quindi tutto il discorso legato alla privacy e quindi alla legalità e la legittimità di determinati strumenti hardware, software che provengono appunto dall'America, la stessa cosa l'Europa avrebbe dovuto fare anche da un punto di vista più strettamente politico. E quindi che è successo? Che quando si è creato questo contesto qui, questa nuova situazione, questo nuovo scenario che è quello della guerra e dell'invasione russa in Ucraina, si sono messi in moto tutti si sono messi in moto tutti, perché la NATO, gli americani, i giapponesi, nessuno pensava che l'Europa avrebbe trovato comunque una sua posizione, una sua risolutezza dal punto di vista ideale, che non è quello di piamo, entriamo in guerra, andiamo a buttare le bombe come fanno gli americani, perché gli americani alla fine, fondamentalmente, questa è una cosa che ve la dovete ricordare sempre, agli americani che cazzo gliene frega qualsiasi cosa che succede, qualsiasi volta che loro decidono di intervenire sarà sempre a migliaia, a decine di migliaia di chilometri da casa loro, sempre. E questo vantaggio strategico li ha sempre parati da questo punto di vista, e quindi giustamente questi non gliene può fregare di meno se poi dopo si creano problemi con i paesi confinanti o roba del genere, perché tanto loro stanno dall'altra parte del mondo. E quindi l'Europa che ha fatto? L'Europa ha deciso di intervenire da un punto di vista politico, creando una visione unitaria, un blocco unico e compatto contro la Russia, costruendo delle sanzioni che tutti prima dicevano ma tanto quello poi si svincola, quello è morbido, quello perché noi abbiamo questo problema qua, noi si insultiamo da soli, perché anche tutti i giornali, tutte le testate, tutti i telegiornali, tutti questi grandi, insomma, divulgatori dei notizie, che alla fine anche loro aderiscono al pensiero unico, al pensiero monodirezionale, alla fine comunque ci dicono ma noi in Italia no, perché noi se svincoliamo ma l'Europa cosa può fare? Ecco che cosa ha fatto l'Europa. L'Europa si è compattata sotto un concetto che è quello del diritto di non essere invasi, del diritto di non essere aggrediti militarmente, nel non diritto da parte di una nazione, dato la sua superiorità dal punto di vista strategico, economico e militare, di prevalere nei confronti di un'altra nazione. Questo è un diritto fondamentale sulla quale si basa il principio dell'Unione Europea, e l'Unione Europea è intervenuta massicciamente, perché sì, l'America non stavano lì, sbladeravano sanzioni, ma chi ha costruito le sanzioni? Chi ha dato le mazzate nei confronti della Russia? Che poi, tra l'altro, anche qui poi ci sarà da fare in futuro poi un discorso, perché anche lì pagheranno persone che non c'entrano niente, perché purtroppo è parte dell'ordine delle macro cose, no? È stata l'Unione Europea che ha trovato un'unità inaspettata, e che può essere dopo il Covid ancora una volta un ennesimo passaggio storico che noi dobbiamo poter sfruttare in questo modo, in questo momento, perché abbiamo dato un segnale a tutti coloro che, e guarda caso adesso sto per dire una cosa, vedevano l'Europa come un fastidio, come un elemento. Io vi ricorderò sempre che le autonomie ideologiche e il sovranismo non sono altro che un'idea, un concetto a favore di qualcuno, non a favore del popolo in quanto autonomo, ma perché comunque, disgregandosi e distaccandosi, il capetto di zona avrà sempre maggiore controllo rispetto al macrosistema, che invece è a favore di tutti, perché è protettivo, perché è una comunione di intenti che aiuta e sostiene comunque l'organizzazione al suo interno. E questa è una cosa abbastanza importante, come abbiamo detto, l'abbiamo visto con il Covid in un certo senso, e questa invece è un'occasione storica. E guarda caso, appunto, dicevamo, chi è che a un certo punto, ieri o l'altro ieri, leggevo, ieri mi sa, chi è che a un certo punto ha voluto sfruttare, perché voi sapete che in Italia c'è un politico che probabilmente tra i politici non è il peggio, perché il peggio secondo me, oltre a Berlusconi e tutti quei sciacalli masticatori dei cadaveri che si è portato dietro, secondo me non c'è mai stato nessuno e difficilmente ci sarà qualcuno nel prossimo futuro, ma è il peggio, il più schifo, proprio il più sciacallo di tutti è Salvini che, come vede una mezza cosa, lui si mette in piedi e comincia a dire stronzate, tipo portare la corona davanti all'ambasciata ucraina, tutte queste cose eclatanti. E che ha detto? Ha detto: ah, ma io e Orban andiamo lì e cerchiamo di risolvere la questione di portare la pace. Perché questo? Perché chiaramente tutto quello che sta succedendo ora è distruttivo dal punto di vista ideologico per tutti questi maledetti disgregatori, tutte queste persone che vorrebbero creare un contrasto, cioè una frattura all'interno di quello che è la possibilità di costruire un'Europa unita. Un'Europa unita che ha reagito in maniera coerente e ora anche loro vogliono entrare su questo carro dei vincitori per non in questo carro, diciamo, ideale, in questo fronte compatto, per non stare fuori ovviamente dalla storia, stare fuori da quello che verrà ricordato come probabilmente un momento importante nel bene e nel male, perché poi quelle che saranno le conseguenze non lo sappiamo ancora, quello che succederà nel prossimo futuro lo scopriremo piano piano, ma comunque questo disperato tentativo di non voler sparire da questa situazione li porta a dire: no, adesso andiamo noi e anche noi cercheremo di combattere per la pace. Poi ce li voglio, andate in Ucraina, fateci vedere insomma quello che siete capaci a fare, ma soprattutto prendete anche questa ennesima botta, perché se dovesse succedere che tutta questa storia assumerà un aspetto positivo, insomma, secondo me sarà da riparlarne dal punto di vista di quello che è proprio l'impronta ideologica che avete voi e che potrebbe prendere una grossa, grossa, grossa mazzata. Allora, Shame, ma sai, questa l'avevamo già vista. Calvin's featuring August Make. Sì, questa mi sa che l'avevamo già messa. Vado un attimo con la gentilezza e la bravura anche a recuperare un po' quello che avete scritto nella chat, perché insomma avete visto che avete scritto, così ne approfitto anche per salutare Francesco che ci ha raggiunti, però mi sono perso Barbara D'Urso, questa cosa lo sapete, mi ha fatto veramente molto ridere. Allora guarda il lato positivo, se i blocchi in modo impliciti ed espliciti provano a disgregare il modello europeo è perché ne hanno paura. Ma io su questo sono abbastanza convinto che sia in effetti così. Ungheria e Polonia sono state fatte entrare troppo presto, la UE si guarda bene dal fare entrare nuovi stati così facilmente. In realtà anche quella è stata forse un'azione tra virgolette di forza che avremmo potuto evitarci, diciamo così, insomma, volendo, anche perché comunque i procedimenti di ingresso all'Unione Europea sono dei procedimenti abbastanza complessi, cioè nel senso comunque non c'è soltanto un adeguamento da un punto di vista strutturale, ma da un punto di vista politico ed economico. Quindi diciamo paesi come la Lituania che si sono preparati per 30 anni per entrare in Unione Europea hanno, eppure essendo poi considerati come degli esempi virtuosi, anche perché è un piccolo stato, quindi probabilmente si poteva organizzare, insomma era in odore di entrare nell'Unione Europea già quasi da subito, però poi alla fine tutti gli iter, tutte le procedure. Il problema di Polonia e Ungheria è che probabilmente insomma lì c'è stata proprio una scelta anche un po' politica, ed è la stessa cosa che secondo me sta cercando di fare poi alla fine Zelensky, ovviamente cercando di buttare dentro l'Europa all'interno di quelle che sono le problematiche, dicendo, mando ovviamente la richiesta d'adesione, ma secondo me già non è accettabile il modo, no? Nel senso, tu non puoi accettare la richiesta d'adesione da uno con la pistola puntata sulla tempia, no? Anche se la pistola puntata sulla tempia vorrebbe il contrario, perché comunque queste sono condizioni assolutamente inadeguate. Tu puoi anche accettare la candidatura, ma cioè voglio dire, ci vogliono gli stessi 25 anni che ci sono voluti per tutti gli altri paesi, compresa la Romania ad esempio, per farci capire insomma, no, quanto è stato complicato poi l'adesione, e non sempre l'integrazione, l'adesione è riuscita così come avrebbe voluto. E hanno tirato tanto la corda ed è arrivata una risposta inimmaginabile. L'Europa in questo ha già vinto. Voglio proprio vedere adesso come cambierà la campagna elettorale di Zucchina e Salvini. Questo è Walter, chiaramente. E prima di dire, allora l'Europa fa blocco contro la Russia e contro gli Stati Uniti, no? Sì, sì, no, è il discorso che tu dici, che vuoi ricordare il GDPR, in realtà l'ho detto anche prima, il fatto che comunque l'Europa sta costruendo la sua indipendenza contro l'imperialismo tecnologico americano, ed è un lavoro complicato, ma è una guerra a tutti gli effetti, e anche una guerra che gli americani non stanno mandando giù tanto volentieri, insomma. E questa situazione in questo momento, secondo me, poi alla fine in qualche maniera mette gli americani ancora più alle strette, perché non possono più fare giochi di forza, perché non possono, dato che ora gli stronzi sono i russi, non vogliono passare per stronzi anche loro. E ricordiamoci che questa invasione tecnologica americana è anche molto sostenuta dai nostri stessi politici, dai nostri influencer, da tutti quelli che sono pagati ovviamente per fare questa cosa. E vabbè, dai ragazzi, comunque avete capito, no, qual è un po' la mia posizione, penso si sia abbastanza compresa. E abbiamo cercato di, sapete che c'è? Aspetta, voglio provare a fare una cosa, perché poi se c'è un momento in cui uno deve stringersi ed avere un'ideologia nazionalista, che è sempre una cosa brutta, ricordiamocelo sempre, allora preferisco avere una posizione nazionalistica europea ed essere fiero di essere europeo, o spero un giorno, prima che io muoia, insomma, di poter dire in maniera fiera di far parte di un'organizzazione evoluta basata su dei principi costruttivi e sui diritti umani, chiaramente. E questo, insomma, mi potrebbe sempre far rendere più orgoglioso di quanto, insomma, di quanto io lo sia già da tempo, sin da quando ovviamente il mio personaggio politico, al quale ho voluto più bene di tutti, non quello che ho stimato di più, ma che ho voluto bene più di tutti, vi ricordo, insomma, in tempi non sospetti, giustamente gridava alla fine dei suoi discorsi per l'Europa, per l'Italia, per l'Europa e per il socialismo, proprio perché l'Europa era un punto fondamentale della sua idea di un'Europa, di una comunità socialdemocratica attenta agli aspetti sociali, civili, ma comunque in grado di trovare un'identità, di essere forte contro le avversità esterne, che ovviamente, come vedete, purtroppo continueranno ad esserci se non ci proteggeremo, se non ci difenderemo, perché, come abbiamo detto, l'uomo purtroppo ha questa tendenza di non essere ancora pronto per certe evoluzioni, per certi salti evolutivi, e quindi è indispensabile che ci siano delle regole, è indispensabile che ci siano delle organizzazioni che possano fiorire all'interno di una visione ideale e legale e regolamentare evoluta, insomma. E questo è il mio pensiero. Detto questo, ragazzi, io spero che anche questa puntata vi sia quantomeno piaciuta. Vi ricordo che a breve dovrebbe uscire la seconda puntata di Te la costruisco io, la web radio, che è il nuovo format che ho messo su grazie allo stimolo di Morgan, che voleva sapere come si fa una web radio. Vi ricordo che domenica sera alle 22 ci sarà la seconda puntata della nuova scuola cinica, che è il racconto ad episodi di Test the Fear, che sono i nostri nuovi amici di Runtime Radio, con i quali costruiremo probabilmente anche ulteriori progetti, ulteriori cose, perché stiamo cercando di far crescere la radio. Più sono i collaboratori, più saranno le live, più questa web radio diventerà sempre più radio, come abbiamo detto, sempre più live, sempre più radio. E detto questo, invece, vi ricordo che questa sera il solito appuntamento con alle 20 il solito appuntamento con Walter Sbano e le orazioni della sera, così come anche domani sera. E domani mattina invece no, perché oggi è giovedì, sto dicendo una cazzata, quindi solo stasera, quindi domani sera no. Domani mattina c'è, torna Leo Vargon con non sappiamo cosa, ma con la sua il mattino allora in podcast, e questo ci fa assolutamente piacere. Mentre che questa sera, quindi, ci sono io con Davide e con Carlo, non ci sarà Roberto per ragioni di lavoro, e faremo una puntata diversa da quella che ovviamente era stata impostata, che è la puntata sulle monnezze che ci siamo magnati noi durante gli anni 70 e 80. Molti dicono in particolare negli anni 80, ma secondo me negli anni 70 era anche peggio. Va bene, ciao ragazzi, buona giornata a tutti.